Martedì 4 febbraio, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, comincia Note Cose Città. Avevo fatto il primo danno della serata dimenticandomi il cavo, ma grazie ai potenti mezzi tecnici messi a disposizione della radio abbiamo risolto, e quindi questo è un motivo in più per aiutare Radio Onda Rossa sostenendola andando sul sito www.ondarossa.info e andandovi a cercare sostieni e donate badilate di denari. Oppure passate qua in via dei Volsci e ce li portate di persona. 0640 senza badilate bastano anche i 30 euro. Oh, te devo presentare. Ciao Calmino. A tutti, ciao a tutti. Oggi ho fatto il matto, ho anticipato. Ammazza, ma sei matto oggi. Non puoi far così, io sono metodico. Scusa, mi hai scombussolato già tutto, vedi? Ma adesso non so più che dire. Stai dicendo 0949 1750, il numero è sempre il solito. 152821. Su Roma. Ciao Fa. Ciao Ale. Io non capisco perché tu c'hai il microfono tutto aperto e non te se senti, io ce l'ho tutto basso e mi sento solo io. Perché mi dai il canale scamuffo? Ecco, ecco, vai che t'ho alzato. Mi dai il canale scamuffo? Oh, quello. Senti, insomma, alla fine niente, saremo, però non ce l'abbiamo fatta andarci. No. Però la facciamo uguale, una puntata su Sanremo. Oggi quello facciamo. Andiamo a Sanremo, andiamo anzi più precisamente sul palco, o dietro al palco anche del Teatro Ariston. Beh. Basta così? No, non basta così. No, a parte le battute, oggi lo saprete, anche se non, insomma, anche se non, lo seguirete probabilmente, ma oggi parte la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Ma noi. Perché c'è il tabacco mio? Perché l'avevi dimenticato dell'aria, io così carinamente te l'ho portato. Olè. Dicevo che noi però non ci occupiamo, non raccontiamo, non dedichiamo la puntata al Festival di Sanremo, ma stiamo a Sanremo al Teatro Ariston, perché nello stesso luogo, anche se in tempi diversi, da un po' di anni, lo racconteremo durante la puntata di oggi, si svolge un'altra kermesse che prende il nome di Rassegna della Canzone d'Autore, a organizzare il Club Tenco, perché la Rassegna della Canzone d'Autore è intitolata appunto a Luigi Tenco. Luigi Tenco è un nome che tutti conosceranno, ma adesso Ale ci racconta qualcosa in più su di lui e sulla sua ultima giornata. Esatto, io più che altro racconto le ultime ore di Luigi Tenco, ma è salito a Lucarelli. Quindi racconto proprio così, faccio la cronaca. Senti adesso la musica sotto, però Lucarelli. Non me la so preparata. Vabbè, comunque. Male. È il 26 gennaio del 1967, sono circa le 10:30 e Luigi Tenco sta per salire sul palco. È molto nervoso, anche perché le prove non sono andate molto bene, i continui litigi con la sua compagna Dalida, che anche lei si esibiva insieme appunto a Tenco all'interno del festival. Però compagna non di vita, compagna artistica. No, compagna anche di vita. In quel momento era compagna di vita. Sì, compagna di vita, compagna di vita. Non c'ho avuto una. No, era anche compagna di vita. E c'è comunque Mike Buongiorno che gli tira sul morale, e insomma, se ti tira sul morale Mike Buongiorno, qualcosa di buono alla fine si riesce a tirare fuori, no? E quindi Tenco sale sul palco, fa la sua esibizione che va meglio di come il cantante immaginava, e poi appena finisce va subito in camerino dove si addormenta. Verrà risvegliato soltanto alle 11:30 per comunicargli purtroppo che la sua canzone Ciao Amore Ciao è stata eliminata. A questo punto il programma della serata prevedeva che sarebbe dovuto andare a cena proprio insieme a Dalida in un ristorante lì a Sanremo. Lui alla fine accompagna Dalida, però decide di ritornare in albergo, l'hotel Savoy. E quello che sappiamo della notte di Luigi Tenco è che lui a luna di notte ha fatto un paio di telefonate a Roma, una ad un suo amico discografico e l'altra ad una ragazza con cui aveva una storia. Intorno alle 2 arriva Dalida davanti alla stanza, la stanza è la 219, trova la porta accostata e insomma all'interno della stanza c'è il corpo a terra di Tenco senza vita, che in mezzo alle gambe aveva una pistola. Lei esce urlando, insomma, in preda al panico: assassini, assassini, l'avete ucciso. Il primo ad arrivare è Lucio Dalla, che aveva la stanza a fianco. Sì, la stanza a fianco, o comunque poche stanze più in là. Poi arriva la polizia, insomma, tutto l'albergo viene svegliato. Quando arriva il commissario, dà lì da consegna un biglietto che aveva trovato sul tavolo, e sul biglietto c'era scritto: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, Tu e le Rose in finale, e ad una commissione che seleziona la rivoluzione. La rivoluzione era una canzone in gara quell'anno di Gianni Pettenati. Sì. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao Luigi. Allora, noi iniziamo la nostra trasmissione con una canzone di Luigi Tenco che si chiama Lontano Lontano, che è la canzone, tra l'altro, che da quando il festival o la rassegna ci tengono a non chiamarlo festival loro, proprio per differenziarsi dal festival che comincia oggi. Ci tengono, scusami. E la canzone però ogni anno viene interpretata da un cantante diverso in gara. Nell'ultima edizione fu il nostro Achillone Lauro a interpretarla, non senza qualche polemica, però noi invece abbiamo scelto di ascoltarci la versione originale. Luigi Tenco, Lontano Lontano. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti fa tanto. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro, e ad un tratto chissà come e perché ti troverai di un amore ormai troppo lontano. E questo è Lontano Lontano di Luigi Tenco. Tra l'altro, una cosa che non ho detto: all'epoca Dalida era molto più famosa di Luigi Tenco al grande pubblico. Infatti, quando arrivarono a Sanremo, questa anche era una cosa che lo fece un po' innervosire, diciamo, gli obiettivi dei fotografi e delle televisioni erano un po' tutti per lei, no? Vai. Andiamo, dai, cominciamo. Abbiamo fatto la premessa, adesso come cominciamo? Perché finiamo con... No, cominciamo a entrare più nel vivo. Fatta la premessa, presentato ai pochi che non lo conoscevano, chi è stato Luigi Tenco, il peso che aveva avuto nella canzone italiana, l'epilogo tragico della sua carriera, della sua vita. Io cominciamo a raccontare la kermesse. Madonna, quanto sei permaloso oggi. Comunque Ale va letto le poche righe con cui Tenco si è congedato dai suoi amici appassionati e dalla vita stessa. quello può essere letta, anzi va letta come un appello a smuovere qualcosa, cioè era un grido d'allarme quello che lanciava Tenco, no? Sul quando rivolgendosi al pubblico, insomma alla giuria, che vogliamo fare, questa era poi, no? Era se da una parte entra la rivoluzione, da una parte vince Grazie neanche... dei fiori là che era? No, io due le rose, vabbè, sempre i fiori so. Comunque l'appello di Tenco di fatto non servì a nulla, cioè non servì a smuovere la macchina del festival e i suoi ingranaggi, non ebbe esito, non ebbe peso su quel fronte, però no, nello stesso tempo continuò il festival, eh? Sì, poi questo ci torniamo, al di là dell'edizione stessa che era stata abbastanza vergognosa, il fatto che non sia stata interrotta, anzi certo, quasi non doveva dar fastidio l'episodio, sì. Sì, il tragico gesto di Luigi Tenco. Comunque, diciamo, il suo appello non servì a nulla né nell'edizione stessa né figuriamoci in quelle successive, però nello stesso tempo suscitò profonda commozione, emozione tra tantissimi appassionati e anche tra molti addetti ai lavori, per fortuna. Quindi tante persone cominciarono a chiedersi se il sistema dominante all'interno di questo settore, questa branca importante dell'industria culturale, non potesse essere modificato a vantaggio di una produzione meno di fatto di canzonette, cioè più intelligente, più valida, più attenta ai contenuti. L'abbiamo detto, Tenco si toglie la vita a gennaio del 67 e i fermenti di quello che sarebbe stato poi il 68 erano già nell'aria, e questo clima che non riguardava solo l'Italia, non riguardava solo certamente non riguardava solo la musica, però tutto questo contesto induceva alcune persone a sperare che un'aria nuova, una ventata d'aria fresca sarebbe entrata anche nel mondo della canzone italiana, e su queste sono le premesse che rendono possibile la nascita, proprio il fatto che proprio a Sanremo iniziò a operare il Club Tenco, club che viene fondato nel 1972 da più persone, però il fondatore e l'animatore è un tizio che risponde al nome di Amilcare, non Fanfani ma Rambaldi, un floricoltore, un partigiano, ex partigiano, un appassionato di musica, ma di questo poi ci dirà meglio Ale più avanti durante la puntata. E il club, questo gruppo di persone, però non voleva limitarsi a commemorare la figura del cantatore scomparso, ma cominciò ad operare, a muoversi come una struttura autonoma, sorretta unicamente dal volontariato, cioè quindi dai contributi dei soci, e la prima cosa che fece fu trovare un posto a Sanremo che facesse da base. Il posto si chiamava il Pipistrello. Qui comincia questo gruppo di appassionati, comincia a tessere una rete che comincia a mettere in contatto artisti, operatori del settore, e prima ancora della kermesse che stiamo raccontando oggi, cioè la rassegna della canzone d'autore italiana, cominciano a organizzare iniziative minori, però portando all'attenzione del pubblico quella canzone altra che non trovava spazio, non solo nel festival ma neanche nelle radio trovava ancora spazio, e che invece il pubblico sempre con più insistenza cominciava a chiedere. E tant'è che ci fu anche un articolo di giornale che poi vi ispirò Rambaldi, non ricordo adesso se La Stampa mi sembra fosse, che mise in prima pagina il nome di Francesco Guccini, sì, Roberto Vecchioni, e disse: bravi, ma chi li vuole? Sì. E Rambaldi disse: li prendo io, ma li prendo io. Sì. Non ricordo, probabilmente La Stampa, ma non... No, era, pensa, Il Giorno. Il giorno. Perché ho pensato a Mazza, che fine ha fatto Il Giorno, probabilmente. Anzi, certamente Il Giorno ci ha avuto. Vabbè, tu poi c'avevi già. Ci ha avuto stagioni. 21 anni, quindi te lo ricordi. Buffone. E tutte queste iniziative del club si concentrarono in forma organica nell'estate del 74, quando tra il 24 e il 27 luglio si tiene la prima edizione della rassegna della canzone d'autore. Lo stesso titolo era una provocazione degli organizzatori, perché canzone d'autore non si era mai, era un termine, era un'espressione che per la prima volta entrava nel lessico della musica leggera italiana, non c'era prima questa canzone d'autore, e quindi già nella scelta del nome volevano distinguersi nettamente dal mainstream, da quello che passava dalle canzonette, appunto. E la prima edizione fu un successo che ripagò gli sforzi enormi degli organizzatori, e la differenza col Festival di Sanremo è al di là del nome, è su mille fronti. Innanzitutto, l'abbiamo detto, non è un festival, è una rassegna, non c'è nessuna gara, gli artisti invitati non venivano scelti di fatto, come succede a Sanremo, dalle case discografiche, ma erano scelti proprio dal club. C'era un comitato organizzatore che prendeva, insomma, un gruppo di appassionati di musica che ragionava su quali nomi era opportuno invitare nella prima edizione, e questa formula continua a esserci ancora oggi. Sì, continua fino ai giorni nostri. E che altro dire? Quindi non solo la scelta era libera, ma non venivano invitati solo nomi noti e con già un passato, con una discografia importante alle spalle, ma anche esordienti o anche artisti che hanno pochi dischi alle spalle o magari un disco solo, ma anche proprio esordienti, persone che ancora non avevano pubblicato neanche un disco. La rassegna, questo lo dico adesso Ale perché poi ce lo perderemo, può vantare di aver lanciato in anteprima tanti nomi importanti della musica italiana. I più noti, almeno quelli che ho citato io, quelli che ho segnato io, sono Branduardi, Ivan Graziani, Paolo Conte, Gianna Nannini, questi nomi, Pierangelo Bertoli, sono i nomi più importanti usciti proprio dal premio Tenco, perché poi la rassegna della canzone d'autore di fatto coinciderà col nome premio Tenco, premio che veniva, era un premio riconosciuto alla carriera, senza appunto nessuna gara. Un'altra differenza rispetto al Festival di Sanremo è che non c'era un artista, non andava per cantare una canzone. Minimo, ogni artista aveva un tempo stimato in circa mezz'ora, in maniera tale che potesse presentare al pubblico in sala e a chi l'ascoltava in radio e poi più avanti in televisione, poteva spiegarsi, diciamo, tra virgolette, per quello che era, poteva mostrare la sua arte e non concentrarla nei 3 minuti e mezzo del singolo che deve vendere a tutti i costi. Io direi che mi fermo qui, ho parlato fin troppo, l'ho detto, il premio Tenco è un premio che viene riconosciuto alla carriera, tra i nomi più importanti, tra gli artisti italiani che hanno vinto più premi, che hanno avuto più riconoscimenti, c'è, poi Ale ne nominerà altri, ma c'è certamente Francesco De Gregori, che nell'arco della sua carriera ha collezionato 6 premi, adesso capiamo anche quali premi perché poi si evolve la formula. E per farvi ascoltare De Gregori veniva perfetta, e quindi non potevamo fare altra scelta che farvi ascoltare Festival, la penultima canzone del suo disco Buffalo Bill, un disco del 76. La canzone parla di Luigi Tenco, parla della notte che vi ha raccontato Ale, e godetela. Festival. Città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200. Peccato fosse solo quando se ne andò, la notte che presero il vino e ci lavarono la strada. Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada? L'uomo della televisione disse: nessuna lacrima vada sprecata, in fin dei conti cosa c'è di più bello della vita? La primavera è quasi cominciata. Qualcuno ricordò chi aveva dei debiti, mormorò sotto banco che quello era il motivo. Era pieno di tranquillanti, ma non era un ragazzo cattivo. La notte che presero le sue mani e le usarono per un applauso più forte. Chi ha ucciso il piccolo principe che non credeva nella morte? E lontano lontano si può dire di tutto. Non che il silenzio non sia stato osservato. L'inviato della pagina musicale scrisse: tutto è stato pagato. Si ritrovarono dietro il palco con gli occhi sudati e le mani in tasca. Tutti dicevano: io sono stato suo padre, purché lo spettacolo non finisca. La notte che tutti andarono a cena e canticchiarono la Vie Rose. Chi ha ucciso il figlio della portiera, che aveva fretta, che non si fermò. E così fu la fine del gioco, con gli amici venuti da lontano a deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta, altri gli hanno fatto un monumento per dimenticare un po' più in fretta. La notte che presero il vino ci lavarono la strada. Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada? E lui era Francesco De Gregori con Festival. Allora, noi è soltanto per dovere di cronaca, ci sono anche insomma alcune teorie sul fatto che Tenco poi non si è suicidato ma fu in realtà ucciso, insomma tutte cose che trovano un po' il tempo che trovano, però questi riferimenti li trovate anche all'interno proprio di Festival, appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato. Poi De Gregori in un passato abbastanza recente ha negato, glissa su queste domande, però c'è tutta una letteratura che la trovate facilmente su internet. Lo stesso Gino Paoli. Dicono che il Festival di Gregori è praticamente, c'è un codice dietro, c'è lui, se analizzate verso per verso sembra che racconta proprio la storia di un omicidio. Insomma, però sì, vabbè, lasciamo a Lucarelli il lavoro di Lucarelli. Esatto. Comunque, qualche giorno prima di partire per Sanremo, Luigi Tenco, insieme al cantautore Pino Pavone, non mi sono informato se è fratello di Rita, spero per lui di no, e Piero Ciampi sono in una trattoria a Roma, la Fiorentina si chiamava, a Piazza Fiume, e Piero Ciampi gli dice: Luigi, tu non devi andare a Sanremo, non c'entri niente con quel mondo lì. E Tenco, furioso, dice: ma parli tu, Piero, tu che non combini mai niente. E il dibattito diventa poi una litigata e Tenco a un certo punto si alza e se ne va, e i due cantautori non si vedranno appunto più. Ciampi non attraversava un grande momento, in realtà il successo vero non lo trovò mai, anche dopo la morte, sì, sicuramente è diventato più famoso, però non è comunque un grandissimo nome. E quindi già nel 1974, l'anno in cui iniziarono i concerti alla Kermesse Tenco, lui fu invitato a partecipare. Lui diceva: sì sì, vengo. Poi non si presentava. A Festival finito arrivava una lettera sulla scrivania di Rambaldi, gli diceva: non sono potuto venire, firmato Piero. Nel 1976 invece Ciampi si presenta. La sua vita privata non va benissimo, la sua dipendenza dall'alcol è sempre più forte. Si presenta al Festival Tenco in condizioni, insomma, non era proprio lucido. La prima cosa che fa quando arriva, dice: chi si esibisce dopo di me? E gli fanno: Roberto Vecchioni. No, scherziamo, io non mi esibisco dopo Vecchioni. E, insomma, effettivamente, diciamo, non aveva tutti i torti. E convincono Roberto Vecchioni ad esibirsi prima. E come ha detto Fabio, gli artisti che partecipavano al festival lo facevano a titolo gratuito. In alcuni casi era previsto un rimborso, all'epoca era di 130.000 lire, e quindi Ciampi dice: sì, ma i miei soldi dove stanno? E a Rambaldi consigliano di non dargli i soldi, perché spesso Piero Ciampi faceva questa cosa, che si prendeva i soldi e poi andava via. E inizia una discussione, finalmente insomma alla fine Ciampi riesce a rimediare i suoi 130.000 lire, quindi è pronto a salire sul palco. Intanto il ritardo è molto molto importante, il pubblico rumoreggia, appena sale sul palco vede le telecamere della Rai e dice no, fermi tutti, se c'è anche la Rai mi dovete pagare di più, perché alla Rai sono ricchi, e c'è gente, dice, che ha i mocassini da 10.000 lire, io non mi esibisco per questa gente qua, quindi mi dovete dare i soldi. E allora via anche le telecamere della Rai e finalmente inizia l'esibizione. Ciampi farà quattro canzoni, la sua esibizione è, diciamo, tra le più importanti e famose dell'intera storia della rassegna Renco. Una di queste quattro canzoni, quella che abbiamo scelto, si chiama Adius. È una canzone che lui non ha mai potuto incidere, se non la conoscete il motivo lo capirete tra poco, per via della censura. È una canzone che si rivolge ad una donna che non contraccambiava il suo amore. Inizialmente lui ha delle parole, insomma esprime un po' il suo dolore, esprime a questa donna la sofferenza del fatto di non essere appunto ricambiato. Poi a un certo punto cambia, diciamo così, decisamente atteggiamento, cambia registro, insomma, e il resto ce lo canta magnificamente Piero Ciampi. Sarà una delle sue ultime esibizioni, morirà il 19 gennaio del 1980. Piero Ciampi, Adius. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no. Ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo. Non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. E non ridere. Non conosci l'educazione. Portami una sedia e vattene. Vaffanculo. insomma, vedo che ridi. Il mio augurio per la serata, se avete un amore che non contraccambia, insomma, di prenderla come il buon piacere. Con grande filosofia. Con grandissima filosofia. Esattamente 10 anni più tardi dell'esibizione di Ciampi, che come ha detto Ale è una delle più memorabili nella storia del premio Tenco, dicevo, esattamente 10 anni più tardi c'è un altro momento forse ancora più memorabile o quantomeno più importante a livello internazionale. Sul palco va un altro artista, anche lui con problemi di alcol. In realtà quando va sul palco, quando va sull'Ariston, i problemi di alcol li ha fortunatamente alle spalle. Parliamo di Tom Waits, perché non abbiamo detto che il premio Tenco, dopo le primissime edizioni, poi di fatto il premio alla carriera viene sempre assegnato a un artista non italiano. Poi capiremo perché a un certo punto, come ho già anticipato prima, cambia il meccanismo della rassegna e quindi vengono introdotte alcune novità. 10 anni più tardi, nel 1986. Lo dici tu dopo sta cosa, no? La dico io. Ah, ok, no, perché scusa, mi era venuto il dubbio. Perché sto guardando troppo. No, perché non me la so preparata. Quindi 10 anni più tardi, è il 1986, Tom Waits è invitato, è prevista la presenza di Tom Waits. In realtà nessuno crede al fatto che verrà veramente. Sembra, da quanto ho letto, abbiamo letto, da quanto raccontano le cronache, che lo stesso Rambaldi, lo stesso organizzatore, non credeva fino in fondo al fatto che Tom Waits sarebbe salito su quel palco. E anche perché nella mattina si era sparsa la voce che il figlio di Tom Waits aveva l'otite, quindi ecco, la scusa perfetta, il figlio ce l'otite, figurati se viene a suonare qui per noi. Invece Tom Waits arriva in una limousine nera insieme alla moglie Catherine Brennan, insieme all'immancabile Roberto Benigni, che ha conosciuto sul set del film di Jarmusch Down Below. E poi la quarta persona, lo sai chi è, Ale? Tu no, chi è? Lo sai? Allora, no. La moglie, lui, la moglie Benigni e Gianni Minà. No, sembra una battuta, veramente. Ma è vero, sembra, non è una battuta, anzi Massimo Cotto, che è un giornalista musicale che ha dedicato una parte di un suo libro a questo evento, racconta che lui era presente, che Minà non solo era lì, ma era proprio quello che faceva quasi da bodyguard, perché Benigni, con la sua esuberanza, non ricopriva quel ruolo, e anche Benigni era un personaggio già molto amato, e Minà era quello che proteggeva Waits, la moglie, dai giornalisti, dai fotografi, e quello che faceva un po' da cicerone, insomma, ma non si rimedia una mail di Gianni Minà? Invitamolo, dai, ma che non ci viene? Non lo so, poi ci pensiamo. Con Gianni Minà, vabbè, più che una puntata dobbiamo fare edizione, però Gianni Minà racconta, vabbè. Quindi, 1986, Waits sarà l'ultimo a salire sul palco quella sera, non ricordo la data, ma non penso che cambia molto. Sale sul palco poco prima di mezzanotte, invece che della canonica, tra virgolette, mezz'ora, lui suonerà più di 50 minuti. Per fortuna qualche persona che merita tanta stima e tanto affetto ha caricato su YouTube l'intera esibizione, quindi cercatevela, basta mettere sulla stringa di ricerca di YouTube Tom Waits Tenco e lo trovate come primo risultato. È evidente che Waits davvero sta è colpito dalla reazione del pubblico, perché il pubblico non fa altro che alzarsi in piedi, è commosso, lui a sua volta sembra commuoversi e concede sempre più bis fin quando arriva appunto a superare i 50 minuti. La scaletta è formidabile, adesso non è inutile che la leggo, ma è formidabile. Non c'è nessun effetto particolarmente speciale, anzi c'è sul palco lui, il suo pianoforte, c'è un contrabbassista e un pezzo della scaletta, Walking Spanish, forse la parte più curiosa. Waits la canta in piedi, accompagnandosi solo con un martello e una pietra, cioè lui canta a cappella e tra le strofe batte un ritmo su questa pietra. E non, nulla altro da dire, potevamo scegliere qualsiasi canzone perché sono tutte magnifiche, però abbiamo pensato che fosse opportuno scegliere la canzone con cui si apre questa esibizione di Tom Waits. La canzone è la canzone presente una canzone presente su Rain Dogs. Waits è nel momento forse più alto della sua carriera, appena licenziato Swordfish Trombone, Rain Dogs, e sta per registrare e sta per pubblicare Frank's Wild Years. La canzone che vi facciamo ascoltare si chiama Tango Till They Are Sore. Thank you. all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past, and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Cut me a switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. And just let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? But I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore. Tom Waits, Note Cose Città, in questa puntata dedicata alla rassegna, dedicata a Luigi Tenco. Allora, lo abbiamo già nominato diverse volte. Possiamo anche dire premio Tenco ormai. Si può, è sdoganato? Sì, è sdoganato. Perfetto. L'abbiamo spiegato. Meno male. L'abbiamo nominato già diverse volte durante la puntata, appunto Amilcare Rambaldi, l'autore, insomma l'ideatore del premio Tenco. E fu proprio Rambaldi, tra l'altro, ad avere per primo l'idea di un festival della canzone italiana. Quindi andò al comune di Sanremo. Cioè, tu parli proprio quello sta per cominciare. Esattamente quello. Ancora non c'era, quindi Rambaldi va al comune di Sanremo, gli dice: perché non facciamo un bel festival della canzone italiana? Loro la prendono un po' larga, poi alla fine gli rubano proprio l'idea, prendono accordi col Casinò e con una serie di investitori privati, e poi nasce il festival, appunto, della canzone. E dopo la morte di Luigi Tenco nel 1971, Rambaldi torna in comune e propone di fare all'interno del festival una sezione dedicata proprio a Luigi Tenco. Però gli dicono: guarda, è un nome un po' scomodo dopo tutto quello che è successo, insomma, che preferiamo... Ci pensiamo, ti facciamo sapere. Sì, ti facciamo sapere, però preferiamo non esporlo troppo, ecco, e diciamo così. Quindi lui viene a sapere di un club fondato a Venezia dedicato proprio a Tenco, per cui si mette in contatto con loro e nel 1972, appunto, fonda il club Tenco a Sanremo. Lo scopo del club, dice, è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d'autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo. I concerti, come abbiamo visto, iniziano nel 1974. Spesso Rambaldi riusciva a coinvolgere gli artisti interessati a partecipare gratis, un po' perché erano amici, un po' perché, insomma, erano dediti alla causa, oppure altre volte, come nel caso di Ciampi, era previsto, appunto, un rimborso. Rambaldi si occuperà del festival fino al 1992, poi nelle edizioni del 93, 94 e 95 non figura tra gli organizzatori, anche se mantiene comunque una supervisione, e morirà nel 1996. Quindi da qui inizierà un po' una seconda fase di questo premio. La grande passione di Rambaldi era la musica brasiliana. Tanti artisti ha portato in Italia, da Jobim a Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento e tanti tanti altri. Noi ne abbiamo scelto uno magari meno famoso, che tra l'altro venne al festival nel 2002, quindi quando Rambaldi già era morto, ma sarebbe stato senz'altro contento di questa scelta. E lui è Arthur Lisdey, è famoso soprattutto, diciamo, come membro dei Lounge Lizard e dei DNA, e nelle motivazioni del premio che gli è stato assegnato dice: sperimentava mischiando suono e rumore, facendoci conoscere un Brasile diverso ma comunque legato alle radici. La canzone che abbiamo scelto si chiama Simply R, lui è Arthur Lisdey. I do love your lack of all expression, find it not at all distressing. Life was tailor-made for this refreshment, while life is rarely lacking dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are, simply beyond why. Simple as okay. Let me provide whatever bravery is required, whatever necessary fraction, but nothing more than it takes to provoke a reaction. Daydream your way around the room through intersections and aggressions. You are one of those creatures who simply are, simply beyond why. Arthur Lisdey, Simply R, qui con Ryuichi Sakamoto e Melvin Gibbs, tra l'altro. Quindi abbiamo detto prima che negli anni poi la formula del premio Tenco cambia, mentre insomma il premio viene dato, è un premio viene dato alla carriera. Nei primi anni viene dato, nelle prime edizioni viene dato a più nomi insieme. Questo crea, proprio per sottolineare il fatto che non vogliono dare in nessun modo l'idea di una competizione tra più artisti, dopo questa formula iniziale cambia. Per esempio, il primo anno il premio Tenco va a Leo Ferré, Sergio Endrigo, Giorgio Gabber, Domenico Modugno e Gino Paoli. L'anno successivo a Vinicius de Moraes, Fausto Amodei, Umberto Bindi, De André, Guccini e Iannacci. Dalla terza edizione cominciano a essere un solo nome, per esempio nel 76 e Georges Brassens. Qualche volta arrivano a due nomi, ma non schiodano da questa formula, e soprattutto dopo i primissimi anni questo premio alla carriera viene dato soltanto a cantautori non italiani. Insomma, vogliono premiare, diciamo così, far conoscere, sì, promuovere la musica internazionale. E tra l'altro loro in alcuni anni non li assegnarono i premi proprio per dimostrare, sì, questo senso, insomma, di che non bisogna, sì, di momento di incontro, non era non una bisognava gara, aspettare, ecco, il nome. La formula cambia quando nel 1984 viene introdotta la targa Denco. Targa Denco che inizialmente è all'interno della rassegna, da un po' di anni, dal 2011, è fuori dalla rassegna, cioè gli artisti a cui viene conferita la targa vengono scelti da una giuria oggi composta da più di 200 tra addetti ai lavori, giornalisti, produttori, insomma, gente qualificata, insomma, che sa di musica, che però è appunto fuori dalla rassegna. Però abbiamo detto che questa targa viene cominciata ad essere conferita, ad essere assegnata dal 1984. Le targhe vengono date al miglior album, ai migliori album, ai migliori interpreti o le migliori interpreti, alla migliore opera prima, poi all'opera in dialetto. Inizialmente era la miglior canzone dialettale, poi 12 anni dopo, cioè nel 96, hanno cominciato a darlo al miglior album, che viene cantato prevalentemente in dialetto, e poi alla migliore canzone. La migliore canzone, adesso abbiamo scelto in scaletta un pezzo da farvi ascoltare proprio da questa categoria, cioè dalla miglior canzone. Il primo aver vinto, vabbè, totalmente pochi quelli iniziali che li leggo, è Gino Paoli con Averti addosso. L'anno successivo, nell'85, è Paolo Conte sotto le stelle del jazz. Nell'86 è Lucio Dalla con Caruso. E arriviamo al pezzo che abbiamo scelto nel 1987, il pezzo si chiama Scirocco, e il premio non viene assegnato solamente, l'avrete già capito, a Francesco Guccini, ma anche a Juan Carlos Biondini, detto Flaco, chitarrista, arrangiatore, chitarrista mostruoso, arrangiatore e collaboratore di Guccini dal 1967. Questo pezzo penso l'abbiano proprio firmato insieme, quindi giustamente, visto che si tratta un premio, il riconoscimento della canzone, vengono premiati entrambi. E la canzone di Guccini è contenuta dentro Madame Bovary, uno dei più bei dischi della seconda parte, diciamo così, della carriera. Questa ovviamente non è una mia opinione, della carriera di Guccini. Leggo tre righe, insomma, con cui lui spiega la canzone. Lo scirocco da noi Bologna, non è un vento abituale, ecco perché sconvolge, ecco perché dà delle impressioni che altrimenti non sarebbe possibile avere. È lo scirocco che spinge a immaginare verieri in una strada del centro. Francesco Guccini, Scirocco. Erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via dei Giudei volavan veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nudi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze. Ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica. So davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine di un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi. E lui era Francesco Guccini. Guccini con Scirocco. Poi non ho detto Meno prima, distante. Ho dimenticato giusto che mi passi, mi hai fatto un assist. E è stato premiato per la miglior canzone insieme a Flaco Biondini. Flaco Biondini che di suo vincerà anche un premio nell'interno proprio del primo tempo. C'è anche, non l'abbiamo nominato per non fare troppe sottocategorie, ma c'è anche i suoni della canzone, cioè dedicato a, rivolto a musicisti, arrangiatori e produttori. Nel 2009 esiste dal 2006 il premio, nel 2009 proprio Flaco ha avuto questo riconoscimento dal Club Tenco. Allora, perdonami Ale. Niente, figurati. Comunque tra gli artisti che hanno vinto più targhe Tenco, ne abbiamo scelto anche un altro, che è Fabrizio De André. Anzi, lui sta proprio in cima alla lista. Sì, sei riconoscimenti. Io no, sette. No, me sa sei. Io sapevo sette, lui e sei Paolo Mario. Conte. E sei in un'altra fascia d'artisti. Vabbè. Comunque, lui l'ha vinto come migliore canzone nel 91 insieme a Mauro Pagani con la Domenica delle Salme. Poi l'ha vinto con Fossati nel 97 con Princesa. Tre migliori album nell'84 con Cresa de Ma, nel 91 Le Nuvole, nel 97 Anime Salve, nell'84 Cresa de Ma vinse anche la categoria. Non abbiamo detto chi è, ma immagino che sì, sì, ho detto Fabrizio De Andrea. L'hai detto? Ok. Esatto, e vinse anche appunto con la opera in dialetto. Noi abbiamo scelto di ascoltarci per Insesa, che è tratta da appunto Anime Salve e è stata scritta insieme a Ivano Fossati. La canzone è tratta dal romanzo di Maurizio Iannelli, il militante delle Brigate Rosse, che lo scrisse quando si trovava in carcere. La Rebibbia racconta la storia di Fernanda Farias di Albuquerque, una transessuale brasiliana. Nasce una relazione tra i due durante il soggiorno a Rebibbia. Il libro è splendido, è edito da Sensibile alle Foglie, la casa editrice fondata da Renato Curcio. Se non l'avete letto, leggetelo, perché è davvero bello. Poi De André fa una cosa pazzesca. Sì, fu proprio Renato Curcio, tra l'altro, a passare a Fabrizio De André il libro. E un'ultima nota su questa canzone prima di ascoltarcela, perché più che altro ci rimanda a un altro festival che è dedicato ad un altro grande musicista, meno noto, meno famoso di Luigi Tenco. Lui si chiama Naco, al secolo Giuseppe Bonaccorso, è l'autore di tutte le percussioni che vengono suonate su Anime Salve. Lui aveva già partecipato, aveva fatto tantissime collaborazioni con tanti altri artisti, aveva fatto un disco solista che è assolutamente eccezionale, suonava qualunque cosa, un disco d'altro irreperibile, se vi capita non fatevelo sfuggire. E purtroppo Naco morì pochi mesi proprio prima dell'uscita di Anime Salve, e quindi nel libretto, tra l'altro, trovate anche una dedica per lui. Ogni anno alla Aiguglia, in Liguria, una cittadina sul mare, si tiene proprio un festival a lui, che è dedicato per 3 giorni la città, anzi, si riempie di musica, di percussionisti. Adesso c'è un grande circo massimo portato in Liguria. Un grande circo massimo, il primo nome che mi viene in mente è quello di Billy Cobham. Insomma, se vi capita, andateci, perché è veramente una bella atmosfera e splendidi concerti. Comunque, Princesa, Fabrizio De André. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figlia. Veglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. albero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone. Umatu, useu, ascenda, a escola, a igreja, a desonra, a saia, o esmalte, o espelho, o batom. Splendida, mamma mia, rientrarci è tosta. Allora, fa, sto un po' in ritardo, io accelero, eh. Il gruppo, andando a casa per Sanremo. Sì, andando a casa per Sanremo. Oh, e posso confessare che a me la pubblicità di Sanremo piaceva. La pubblicità? Sì. Non ho, di quest'anno, di questa edizione? Sì. Credo di averla, no, non l'ho vabbè, vista. Vabbè, comunque. Il gruppo più premiato al premio Tenco sono gli Alma Megretta, miglior opera prima nel 1995 con Sanagore, poi Immaginaria nel 2001 come... nella categoria album in dialetto e poi premiati anche con l'album Sanacore. Quando lo vincono nel 1995 si esibiscono insieme a Pino Daniele, che quell'anno aveva vinto anche lui con Non calpestati i fiori nel deserto, e l'anno insomma forse più importante nella loro carriera, visto che poi furono anche contattati dai Massive Attack per remixare Karma Coma. Il video che ha la canzone che era stata scelta per oddio, non mi viene la parola, come singolo, scusa, non te scordà, e la canzone fu accompagnata anche da il video realizzato, che non te veniva, non te scordà? No, non mi veniva, esatto, non te scordà, il video realizzato da Pappi Corsicato, e noi niente, ce l'ascoltiamo semplicemente perché è un pochino tardi. Alma Megretta, Non te scordà. Thank you. Attendre l'amour qu'à short ma mise de marron. Ou vendre la gente va crista ma chiama puttana. Non ho mai saputo sta carcerata in una casina. E non mi capivo che sta non l'ho trovata. A chi mi schiferei con voi? Col cuore tutto venne come me. Non mi sopporta che sto saccia c'è. Mi sono specchiato non tuo pulisse me morto. Non descurdo, non descurdo. Non descurdava che sta vita se ne va. Non descurdo mai le teste. Non descurdo, non descurdo. Non descurdava che si ne va a campo. Non descurdo te. Mamma, puttana, ho brutta copia in onda. Che sta una femminilla, che sta parte munda. Che quando nasce, che sta destinata. E sia come hanno cuore, la gente è condannata. Mamma, puttana, ho brutta copia in mamma. Avesse voluto che in da questa parte munna. Apprezzata no per i mascoli sgravata. No per chi sto corpo è bella. No per ammazzata carcerata. Solamente perché femmina sono stata. E non catenaccio ancora non me l'ha mai inserrata. Solamente perché femmina sono stata. Solamente femmina. Non descurdo, non descurdo. Non descurdo perché sta vita se ne va. Non descurdo mai le feste. Non descurdo, non descurdo. Non descurdo perché si no che campo fa. Non descurdo te. Alma Megretta, non te scurdà, una delle ultime canzoni per la puntata di oggi dedicata al premio Tenco. Qua si certo, parlava. Hai finito tu, una delle ultime. Una delle ultime. Però è una delle ultime andato di fatto. Si parlava di come avremmo anche voluto scegliere Sanacore. Io ho scelto Non te scurdà, però, perché devi sapere, caro Fabio, che io un po' di anni fa ascoltai una cover di un gruppo che non riesco a ricordare chi fosse. Sono diventato pazzo in questa settimana e non l'ho ritrovato. Che la cantavano facendo Non te scurdà del latte e diciamo che mi ha segnato un po' la vita. Voglio sapere. Vabbè, sono una persona simile. Magari cioè, qualche dai. Ascoltatore, ascoltatrice lo sa. Sì, sì, se sapete chi era, non te scurdà del latte, era bellissima. Vabbè, basta. Dai, che il tempo stringe davvero. Abbiamo detto il prima Tenco. Che la targa Tenco. Alma Megretta hanno vinto, ha detto miglior album in dialetto. E due volte. No, hanno vinto una volta opera prima e due volte album in dialetto. Ah, ok. Va bene, la categoria invece come miglior album, arriviamo a giorni un po' più vicini, insomma un po' più vicino all'oggi. Nel 2015, fra i nominati per la targa Tenco nella categoria miglior album, e c'è un tizio che risponde al nome di Jacopo Incani, più famoso col suo nome d'arte, col suo pseudonimo, che Io sono un cane, classe 83. Tra parentesi, non vinse, quell'anno vinse Mauro Ermanno Giovanardi, ma comunque a noi piaceva far ascoltare lui, anche perché non siamo mai riusciti a passarlo prima, se non sbaglio, vero Ale? No, non abbiamo passato mai. Lui è un cantautore, musicista, è un produttore discografico e compositore sardo, è originario di Bugerru, che apre un incito, è una località magnifica lungo la Costa Verde, c'è la costa occidentale della Sardegna. Pensavo vacanza. No, no, no, non mi permetto, anche se Bugerru la conosco, è un posto magnifico, ma questo ci frega il giusto. E una volta finita la scuola dell'obbligo, una volta maggiorenne, si trasferisce a Bologna per l'università. Non c'è dato sapere se poi si è laureato, quello che è certo è che al DAMS, sicuro, arrivano tutti al DAMS. Non lo so, nel 2008 comunque nasce il progetto Io sono un cane e comincia a farsi notare su MySpace, o un'anteprima di quello che sarà il suo primo album. Il nome ancora non era Io sono un cane, ma cioè su MySpace il nome era Primo pacchetto tematico gratuito. Vabbè, comunque nel 2010 esce il suo album che si chiama La Macarena su Roma, album che tra parentesi viene inserito tra, anche in questo caso non vince, ma è tra i nominati nella categoria per la migliore opera prima, sempre parlo della targa Tenco, e un disco molto bello, quindi si fa notare ancora di più anche su MySpace, ha avuto abbastanza successo fino a quando ha funzionato quello strumento, però collabora come arrangiatore in un album di un altro artista, però di fatto un po' sparisce dai radar, riappare nel 2015 con il suo secondo album, e tuttora l'ultimo album sta per uscire, annunciato a dicembre che sta per uscire il terzo album. Comunque esce l'album Dai o Die, non lo so, non so se sai, che non so se secondo me è Dai, sarà Dai, comunque Die che vuol dire Die che vuol dire, ma che è puntato, quindi sarà Dai, sarà. Vabbè, Dai, calmo, abbassa un po', abbassa i toni. Comunque il disco è magnifico, consacra il musicista sardo e come ho detto prima l'album riceve una nomination, non vincerà. Noi però ci ascoltiamo una canzone magnifica tratta da questo album che si chiama Stormi, Io sono un cane. Svegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò, sulla riva si fu, per stendermi al sole. We'll be right back. io sono un cane, comunque falla finita questo gioco. Comunque vabbè, diciamo che qui c'è qualcuno che conta se le canzoni che mette lui prendono più mi piace rispetto alle mie. Vabbè, questo è veramente un segno dei tempi. Fate un selfie pure, mettilo sotto, mamma mia santa. Vabbè dai, chiudi, va. Chiudo? Dai, che hai vinto, il tuo ha fatto no, meglio. No, per carità. Senti, al di là del fatto che questo regoliamo i conti. Ricordiamocelo, signore e signori. Ale, guarda, sta per cominciare. Forse saremmo già cominciato, quindi forse devi scappare a casa. Dai, dai. Quindi andiamo veloci. L'ultima, ci siamo tenuti come ultima artista nata che nell'ultima edizione del premio Tenco, quello che ha fatto tanto rumore, soprattutto per la blasfemia di Aire Lauro, che si è permesso di interpretare Lontano Lontano in una maniera che è piaciuta poco alla famiglia e poco a molti. Famiglia che tra l'altro si è dissociata, dai, quest'anno dal. Sì, tutto dal questo festival. Fronte non abbiamo raccontato. No, non abbiamo raccontato, non ce ne frega niente. Però no, io Ghillone. Magari è anche interessante, però se avremmo forse detto troppe cose ci sarebbe stata troppa poca musica. Comunque, Nada è tra. Nell'ultimo anno. È finita nella rosa dei candidati alla Targa Tenco come miglior album, non ha vinto, e ha vinto Capostella col titolo dell'album, adesso mi sfugge, comunque ha vinto Capostella. Ha detto non ha vinto? Nada. E non tenco nada. Non tenco nada. È sfuggita questa battuta. Sì. E il disco di Nada è uscito nel 2019, è davvero bello, si chiama È un momento difficile, tesoro. E il disco è prodotto da John Parrish, uno che per dire nel curriculum soprattutto PJ Harvey, ma anche i Giant Sand, gli Years e tanti altri nomi, grandi nomi della musica internazionale. Con Nada aveva già lavorato nel 2004 per l'album Tutto l'amore che mi manca. Noi come pezzo scelto per chiudere la puntata è il primo singolo tratto dall'album. Il singolo è Dove sono i tuoi occhi, la canzone è magnifica, alzate il volume, Nada canta che è una meraviglia e strilla che è una meraviglia. Noi ci sentiamo anzi martedì prossimo. Prossimo, grazie. Non vi andate a vedere Sanremo, uscite, no? Se può dire? Sì. Penso di sì. Ciao a tutti e ciao a tutti. Dove sono i tuoi occhi? Dove sono i tuoi occhi? La tua voce che teneva lontano il buio. Dove sono i tuoi occhi? Che inferno avere delle braccia e nessuno da abbracciare. Dove sono i tuoi occhi? Le tue risate, le parole dolci. Ed è chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Molto chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Dove sono i tuoi occhi? La tua voce che teneva lontano il buio. Dove sono i tuoi occhi? Che inferno, le mie vene arrivano alla luna, fatta di rocce, di pietra inerte e morta, e sono niente di fronte al mare, alla violenza del vento, alla rabbia del cielo. Ed è chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Molto chiaro che la mia vita crolla su se stessa e non lascia niente dietro di sé. Yeah. sa palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os sonhos, as lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem